Ciao a tutte e tutti, grazie di essere venuti qui. No, vabbè. Allora, andiamo al nocciolo della questione. È qui tra noi Omar Garcia, che viene dal Guerrero, è uno studente della scuola normale rurale di Ayotzinapa e forse ci dirà poi anche due cose su che cosa è una scuola normale, rurale in Messico, che ha una valenza, diciamo, una specificità che non credo che sia paragonabile con nessuna tipologia, diciamo, di istituzione scolastica in Italia, e profondamente radicata nella storia del Messico, della rivoluzione messicana, eccetera. Allora, no, innanzitutto volevo lanciare così questa serata con un parallelismo, cioè più che un parallelismo, insomma, coglievo un pochino il fatto che ieri è stata la commemorazione, diciamo, la giornata di commemorazione, però anche insomma, di lotta rispetto ai 46 anni della strage di Piazza Fontana a Milano. E credo che, appunto, insomma, il ricordo di una strage di quel tipo, e di come la strage, il massacro di massa ai civili o ai militanti, però non so come dire, la collaborazione tra apparati statali e parastatali, come era stato allora con i neofascisti, come in Messico con la criminalità organizzata, diventi un dispositivo efficacissimo di governo, di terrore, di governo delle popolazioni, e soprattutto nei momenti in cui queste popolazioni si fanno più pericolose, diciamo, per l'ordine costituito, come era in quel periodo in Italia, e come in realtà cioè, è a ondate, ciclicamente, avviene in Messico, con situazioni completamente diverse, e un livello di impunità esagerato, e che poi comunque Omar racconterà molto meglio di me. Io mi limito semplicemente a dire un pochino come siamo arrivati a conoscere questa lotta di Ayotzinapa e il perché la presenza di Omar qua, insomma, sia particolarmente significativa in un percorso che abbiamo iniziato quasi un anno fa, tra una serie di persone che per varie vicende slegate tra di loro si sono ritrovati ad avere un rapporto particolarmente, diciamo, di vicinanza con il Messico che lotta e che hanno in qualche modo vissuto o si sono sentiti vicini alla popolazione messicana al momento in cui è stata colpita, diciamo, da questa strage che non è che la punta dell'iceberg di tutto un processo, appunto, una situazione gravissima di desaparecidos, di omicidi, di complicità tra narco e Stato che caratterizza il Messico contemporaneo. E tutti noi ci siamo un po' ritrovati insomma, attraverso alcune iniziative create qua e là da diverse realtà di movimento qua a Bologna, e abbiamo deciso di dar vita a un gruppo, diciamo, più o meno stabile che potesse in qualche modo mettere luce sulla vicenda di Ayotzinapa, un po' come è stato fatto in tutto il Messico e anche molto a livello internazionale, ogni volta che il movimento di Ayotzinapa chiamava una giornata, appunto, di ricordo, di lotta, di solidarietà internazionale e così via. Che di solito, almeno tutto l'anno scorso, sono stati i 26 di marzo, cioè il 26 di ogni mese. Noi abbiamo iniziato appunto col 26 di marzo, che erano i 6 mesi dalla strage. Abbiamo portato avanti una serie di iniziative. Con l'anniversario abbiamo proiettato un documentario che è stato fatto, appunto, che descrive più o meno questa situazione. Abbiamo organizzato feste, eventi, incontri in questo gruppo che si è chiamato Bologna per Ayotzinapa, e al sapere, diciamo, del della, insomma, del fatto che Omar veniva in Italia, abbiamo chiamato Omar, l'abbiamo già conosciuto una volta in passato, era il 28 di aprile, un gruppo di lui, il padre di uno dei ragazzi desaparecidos di Ayotzinapa e un attivista, diciamo, per i diritti umani in Messico, si sono fatti il giro di tutta Europa con varie tappe in diversi stati dell'Unione Europea per un mese abbondante, e noi abbiamo organizzato per quell'occasione in Italia. Le due tappe erano Milano il 28 aprile e Roma il 29, e noi siamo andati con, abbiamo organizzato un pulmino per andare alla tappa milanese, dove c'è stato un presidio davanti al consolato messicano molto partecipato, con anche un mini corteo, tanti incontri di tante realtà in qualche modo molto diverse tra di loro che solidarizzavano con questa lotta, e poi abbiamo fatto una serata molto molto bella e insomma forte, dentro un tendone del No Expo Camp, che era, diciamo, il campeggio fisso dei No Expo, perché si era ridosso il 1° maggio, al parco di Trenno, dove c'è stata questa serata dedicata appunto ad Ayotzinapa, che insomma è stata veramente molto forte. Insomma, per tutte queste ragioni, appunto, quando abbiamo saputo che Omar veniva a Bologna, abbiamo voluto assolutamente organizzare questo incontro. Io direi che chiudo qua. Se Omar ci vuole raccontare un pochino, insomma, magari prendere le fila di quello che è successo quella notte, la tragica notte del 26 di settembre del 2014 a Iguala, e poi tutto quel potentissimo movimento che c'è stato dopo, la risonanza che ha avuto, come ha cambiato anche la coscienza del Messico, come le varie lotte si sono venute a intrecciare rispetto a questa vicenda. Bueno, primero, buenas noches y gracias por venir. Gracias por venir, buenas noches. Como decía el compañero, pues me voy a parar. Estuvimos recorriendo 13 países de la Unión Europea en abril y mayo, 3 personas. Como decía Alessandro, 3 personas han girado 13 países de la Unión Europea. Difundiendo un problema, probablemente muchos lo conozcan, probablemente no, pero ahora lo voy a tratar de resumir. Parlando di un problema di cui ora parlerà, cercherà di fare un riassunto. Levanten la mano quien ha escuchado de Ayotzinapa. Alzi la mano chi ha ascoltato, sentito parlare di Ayotzinapa. Tenemos bastante información o más o menos. No, bastante. Abbastanza. Si hay mucha información. Cuando venimos en abril y mayo, traíamos la información que, pues, ¿cómo les puedo decir? Para abril y mayo solamente conocíamos una versión de los acontecimientos, la versión del gobierno. Cuando son venuti ad aprile e maggio, solo avevano una parte di quello che era l'informazione che invece ora hanno. Tuvimos que esperar hasta septiembre de este año para tener la contraparte, la versión nuestra, la versión de la Comisión Interamericana. He dovuto aspettare fino a settembre per avere l'altra parte della verità, la versione che quella che è vicina a noi, quella che è la versione della Commissione Interamericana. Esta versión de la Comisión Interamericana volvió a equilibrar la correlación de fuerzas respecto a al manejo de la información a nivel nacional y a nivel internacional. Questa la versione della Commissione Interamericana ha riportato, diciamo, l'equilibrio tra le due versioni a livello nazionale e internazionale. Ora, pues, in base a tutto questo, io les voy a contar más o menos nuestra percepción de cómo ha venido desarrollándose el movimiento desde el principio. In base a ciò, vi racconterò come dall'inizio si è sviluppato il movimento. Voy a tocar unos puntos claves que tienen que ver con la manera de cómo actuó el gobierno con los familiares y cómo respondió la población a nivel nacional y a nivel internacional. Toquerò alcuni punti chiave che spiegano come ha risposto il governo a questi fatti. E l'opinione pubblica a livello nazionale. L'opinione pubblica a livello nazionale e internazionale. Bueno, primero decir lo que dijimos siempre, no son solo 43 desaparecidos en México, hay más de 26.000. Innanzitutto non sono solo 43 desaparecidos, ma sono più di 26.000 i desaparecidos in México. No son solamente 3 asesinados, hay 152.000 asesinados en apenas 10 años. Non sono solo 3 i morti, sono 152.000 i morti in 13 anni. 10 anni. Y no solamente la desaparición forzada o los asesinatos extrajudiciales son los problemas de México, hay muchos más problemas. Y son muchos más problemas, aparte de la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales. Y ci sono molti altri problemi, oltre a questi. Nosotros somos una escuela normal rural. La nostra è una scuola normale rurale che tiene una popolazione campesina. Risponde a una popolazione di contadini. Nostra scuola tiene 89 anni già. Ha 89 anni. E si fondò come prodotto di una rivoluzione, la rivoluzione messicana del 1910. Dell'esito della rivoluzione messicana del 1910. E fu impulsata más, soprattutto durante la época en que gobernó Lázaro Cárdenas del Río. È stata sviluppata o impulsata. È nata soprattutto nel periodo di governo di Lázaro Cárdenas, presidente. Ahí recibió un impulso grande y también una misión que era acompañar la reforma agraria, las luchas sociales y demás. Il compito era quello di accompagnare con la formazione della scuola rurale la riforma agraria. E le lotte sociali. Comunque sono gli anni 30 del Novecento. Sì, nel 1930, 40, non so meno. Entonces, eso nos da una caratteristica muy particular a nuestra escuela. No solamente estudiamos dentro de las aulas, también participamos en las luchas sociales. La cosa caratteristica della nostra scuola è che non solo studiano nelle aule, ma partecipano anche alla lotta sociale. Y eso obviamente con el paso del tiempo, de 1940 al 2014, nosotros seguimos apoyando a las comunidades rurales y el gobierno ya no lo hace. E dal 1930 loro continuano ad appoggiare le comunità rurali, mentre il governo poco a poco lo fa sempre meno, non lo fa. Y eso nos ubica de frente al Estado, o sea, nosotros estamos con el pueblo, ellos están con las transnacionales, con los que tienen dinero, ¿no? Esto ci pone al fronte, diciamo, davanti, contro lo Stato, mentre lo Stato fa accordi con chi ha soldi, quindi le multinazionali. Somos pues en resumen estudiantes no alineados, estudiantes, nos dicen allá, revoltosos. Non siamo studenti allineati, ci dicono rivoltosi, ci chiamano rivoltosi. Y al ser eso obviamente nos tienen estigmatizados. Los de Ayotzinapa alteran el orden, los de Ayotzinapa roban, los de Ayotzinapa son malos maestros, los de Ayotzinapa son guerrilleros, partigiani. E dicendo questo ci stigmatizzano dicendo che siamo dei rivoltosi, che siamo dei partigiani, dei guerrieri, rubiamo, che diciamo blocchiamo il nostro stato. Sì, bueno, lo che sucedió il 26 di settembre obedece a eso, ¿no? Obedece a que éramos de Ayotzinapa, el ejército, la policía y todos los que participaron esa noche, pues se ensañan sobre todo con nosotros porque somos de Ayotzinapa, porque somos su enemigo, según sus concepciones. Quello che è successo il 26 risponde proprio a questa logica, il fatto che siamo di Ayotzinapa e per questo l'esercito ci ha attaccati, perché siamo di fatto il loro nemico. ¿Quieren que cuente bien la historia del 26? Sì, credo che, non lo so. Qualcuno non sa cosa è successo il 26 settembre del 2014. Non raccontato da lui. No, infatti. Conta. No, tal vez lo saben, pero no se lo contaste tú, lo leyeron en los periódicos, ya sabes. Ya. Sí, es diferente. Miren, les voy a ser honesto, a mí casi no me gusta hablar de esa noche. Miren, les voy a ser honesto, a mí no me gusta casi hablar de esa noche. Non mi piace quasi parlare quella notte. Yo soy estudiante de ahí y estuve ahí también. Sono studente di là e sono stato presente quella notte. Yo di testimonios en octubre, noviembre, diciembre del año pasado. Ho fatto testimonianza a novembre, dicembre, ottobre dell'anno passato, l'anno scorso. Que era para mí, para muchos compañeros, la época de los testimonios. Y la época de llorar y ser la víctima. È stato il tempo in cui abbiamo dato testimonianza, era il tempo dei pianti, di essere le vittime. Lo que nos surgía era responder. ¿Qué hacemos ante esas circunstancias? Quello che ci urgeva rispondere era cosa fare, cosa facciamo di fronte a questi avvenimenti. O sea, debido a que estuvimos ahí en los acontecimientos, que muchos de mis compañeros sobrevivientes vieron cómo se llevaron a los 43, yo vi cómo nos balacearon, mataron a tres compañeros, pues realmente lo que queríamos y lo que quisimos era buscarlos, encontrarlos. Molti sono stati, eravamo lì quella notte, io ho assistito al fatto che ci stessero sparando, ma quello che volevamo rispondere, a cui volevamo rispondere era cosa facciamo, cosa per trovarli. Sí, lo que debe quedar claro es que yo no soy un farsante, yo estuve ahí. Sí, que ha estado ahí, era ahí con la noche. O sea, yo estuve ahí, no es que no haya estado. Yeah. Y lo que pasó es que la policía disparó contra los estudiantes. Yo era ahí, lo que ha sucedido es que la policía sparava contra los estudiantes. La policía subió a las patrullas a los 43 compañeros. La policía ha caricato sulle auto i nostri compagni, i nostri 43 compagni. Disparó contra nuestros compañeros y asesinó a tres. Sparato contro i nostri compagni e ne ha uccisi tre. Y no solamente la policía del municipio, también había policía federal, estaba el ejército y otras fuerzas del orden. Non era solo la polizia municipale, c'era la polizia federale, c'era l'esercito. Nosotros, como vimos que se llevaron a los compañeros en las patrullas, creímos que se los llevaban a la cárcel. E noi a vedere che se li portavano via sulle auto, pensavamo se li stessero portando in carcere. Y por eso al día siguiente los buscábamos en la cárcel, al tercer día, al cuarto día los seguíamos buscando en las cárceles. Quindi il giorno dopo noi li cercavamo in carcere e continuavamo a pensare che lì stessero. Jamás nos imaginamos que se trataba de una desaparición forzada. E non abbiamo mai immaginato che si potesse trattare di una desaparición forzata. Hay muchas fuentes nuestras, fuentes, libros, revistas, entrevistas que ustedes pueden consultar. Son nuestras, son nuestros testimonios. Nos quitaría mucho tiempo hacer un relato completo de esa noche. Ci sono molte fonti che potete consultare, molte testimonianze che abbiamo dato, video che abbiamo girato, in cui potete insomma informarvi su tutto quello che è successo quella notte. Ora ci toglierebbe abbastanza tempo. Más bien de lo que yo les quisiera hablar es cómo está la situación a 15 meses después. Quello di cui voglio parlare è come sta ora la situazione 15 mesi dopo. Y tocar los puntos claves que yo les mencionaba hace un rato. E parlare di questi punti chiave di cui vi parlavo all'inizio. Punto clave numero uno es 5 y 6 de octubre. Il punto numero uno è il 5 e 6 di ottobre. 5 fosas clandestinas, 28 cuerpos dentro. 5 fosse clandestine con 28 corpi dentro. Y el gobierno diciendo que son nuestros compañeros. Il governo ci diceva che erano i nostri compagni. El impacto en las familias, en nosotros, los compañeros estudiantes, en la población mexicana era terrible, tremendo. L'impatto in noi, nei genitori, popolazione messicana è stato terribile. Aquí hay un punto clave sobre todo, ¿no? Los padres de familia ya estaban, ya nos habíamos reunido, o se habían reunido con nosotros como estudiantes y con los abogados de derechos humanos. I genitori del 43 già si erano riuniti con loro come gruppo di studenti e con gli avvocati di diritti umani. Estos abogados ya tenían experiencia previa en desaparición forzada, en asesinatos, en muchos casos como este. Questi avvocati si occupavano, avevano già esperienza di un caso come questo, di desaparición forzada. Y le dijeron a los padres, esperen, señores, señoras, padres de familia, mamás, esperen, primero tenemos que comprobar que esos 28 cuerpos son sus hijos. Quindi subito hanno fermato i genitori dicendo che prima dobbiamo verificare che siano davvero i corpi dei vostri figli. Créanme que los padres de familia se estaban viendo unos a otros, como diciendo de quién será, será tuyo, será mío, será... O sea, ya estaban con la idea de que esos eran sus hijos. I padri di famiglia già si guardavano l'un l'altro dicendo di chi sarà il figlio, sarà il tuo, sarà il mio, di chi saranno. En verdad, si no hubieran los abogados convocado al equipo de antropología forense argentino, no se hubieran engañado. E se gli avvocati non avessero convocato un equipo di antropologi forensi argentino, ci avrebbero ingannati. Ahí aprendimos que el Estado mexicano actuaba de esa manera y que había engañado a miles y a miles de familias en el país. E lì abbiamo capito che lo Stato messicano mentiva a mille migliaia di persone in questo modo. A partir de ese momento nosotros dejamos de creer en las autoridades mexicanas. A partire da allora abbiamo smesso di credere nelle autorità messicane. Cioè, perdimos toda confianza en la investigación que estaban realizando, en la búsqueda que estaban realizando. Perdimos la confianza en el gobierno mexicano. E abbiamo perso la totale fiducia nell'investigazione che stavano portando a capo e nella ricerca dei nostri compagni. Nosotros creemos pues que esta es una premisa necesaria en un caso de desaparición forzada, desconfiar totalmente de la autoridad, sobre todo si está comprobado que es la autoridad quien se llevó a las personas. Per noi questa è la premessa fondamentale, non dare fiducia all'autorità, soprattutto se sai che è stata l'autorità a portare via i tuoi compagni. Otro punto clave es la reunión con Enrique Peña Nieto, el presidente de México, el 29 de octubre del año pasado, 2014. Otro punto clave es la reunión del 26 de octubre, avuta con el presidente Peña Nieto, presidente mexicano. ¿Qué es lo que pedimos ahí? Lo que pedimos fue que de la Comisión Interamericana viniera un grupo de expertos a coadyuvar en la búsqueda y en la investigación. Quello che abbiamo chiesto lì è stato che venisse, investigasse un gruppo di esperti che partecipasse all'investigazione. Esto perché non confiavamo en la autoridad, no teníamos certeza de que iban a investigar bien, etcétera, ¿no? Por eso necesitábamos un gruppo independiente que garantizara que la investigación y la búsqueda se llevaría de buena manera. Per questo avevamo bisogno della presenza di un gruppo indipendente che garantisse. Quindi un'investigazione, sì, la ricerca dei nostri compagni. Esto creo que yo, bueno, nosotros creemos que esto va a quedar en la experiencia de los movimientos en México. Pocos han logrado estas cosas. Per noi questo sì, rimarrà nella storia del Messico perché pochi sono riusciti ad ottenere ciò. Claro que no lo logramos ese día. Enrique Peña Nieto dijo, sí, vamos a permitir que vengan expertos extranjeros a apoyarnos. No l'hanno comunque conquistato quel giorno, perché Peña Nieto solo ha detto, sí, permetteremo que venga un grupo externo a investigare. Sin embargo, lo permitieron hasta marzo. Però l'hanno attuato a marzo, di fatto. ¿Por qué lo permitieron hasta marzo? Preguntábamos, se preguntarán ustedes por qué hasta marzo. ¿Por qué? Quindi ci si chiede perché fino a marzo l'intervento. Pues sencillamente porque tenían primero ellos que darle una versión a la población mexicana y a la opinión pública internacional. Perché dovevano dare loro una versione inizialmente alla una versione loro alla popolazione, una versione forse anche internazionale. Una versione creibile o más o menos creibile che intentaron primero il 7 de noviembre del año 2014. Una versione più o meno credibile che iniziarono a dare il 7 di novembre del 2014. Dijeron que los policías tomaron a nuestros compañeros, se los entregaron a la delincuencia organizada y la delincuencia organizada los quemó en un basurero. Dijeron que la policía había preso a nuestros compañeros, se les había portado via y les había bruciado en un basurero. En un... Li aveva dati alla criminalità organizzata. Sì, ai narcos e li avevano bruciati in una discarica. Eso es lo que dijeron y lo difundieron a nivel nacional, a nivel internacional. Llenaron los medios de comunicación de eso. Hanno riempito dicendo i media di comunicazione dicendo questo alla comunità nazionale e internazionale. Imagínense tanta indignación en los padres, en los estudiantes, en la gente que nos apoyaba en México y en otros países como este. Imagínate la indignación de parte de los estudiantes, de los padres de familia en México y en otros países como este. Todos sabíamos que era una mentira, el problema es que no teníamos con qué responderles. Sabíamos todos que era una bugia, solo que no sabíamos cómo responder. Los padres habían ido a ese basurero en los primeros días de octubre del año 2014 y no vieron nada. I genitori erano andati i primi giorni di novembre, ottobre in questa discarica, ma non videro niente. Pero los padres no son expertos, ni son peritos, ni son pues no son nada, son padres de familia que podrán decir lo que quieran, pero no tienen herramientas para demostrar algo. I genitori non sono niente, sono solo padri di famiglia, non sono esperti, non sono periti e non hanno i mezzi per dimostrare niente. Y entonces finalmente dejan que los expertos entren en marzo, comienzan su trabajo y descubren varias cositas como las siguientes. E infine lasciarono che gli esperti entrassero, iniziassero a investigare e scoprirono varie cose come queste. De las primeras cosas que descubrieron los expertos es la siguiente. El 40% de los presos que tiene el gobierno mexicano por el caso Ayotzinapa fueron torturados. La primera cosa fue que el 40% de las personas que han arrestado por aquella noche son state torturadas. Y nosotros no confiamos en declaraciones arrancadas bajo tortura. E noi non crediamo a una confessione sottratta, tirata fuori con la tortura. Además, los tratados internacionales condenan la tortura como método de investigación. E la tortura è condannata dai trattati internazionali come metodo di interrogatorio. Digo, a lo mejor muchos de ustedes podrán decir que torturen a los de ISIS actualmente, ¿no? No sé. Molti diranno torturate all'ISIS. Sí. Y bueno, allá ustedes, pero nosotros no pedimos que se torturara a los presos para arrancarles la verdad. Magari voi, pero noi non abbiamo chiesto che si torturassero quelle persone per scoprire la verità. Nosotros no pedimos que se les castigue de la misma manera como ellos hubieran hecho con nuestros compañeros. Y noi non volevamo che li castigassero per scoprire allo stesso modo che fecero con i nostri compagni. Avrebbero fatto con i nostri compagni. Primero porque el método de tortura no es confiable. Segundo porque tampoco es ético. Prima perché non è un metodo fidato e poi perché non è etico. Entonces, bueno, pregúntense si confiarían en una investigación a personas presas bajo tortura. Sí, nosotros no, pues se lo repetimos. Chiedetevi se voi vi fidereste di una confessione estratta con una tortura. Noi no. Descubrieron los expertos que mucha evidencia fue alterada. Gli esperti hanno scoperto che molte delle prove sono state alterate. Videos eliminados del expediente. Video eliminati dalle prove. mucho de lo que decían las declaraciones tachado así en negro totalmente en el expediente. Molte delle dichiarazioni venivano addirittura cancellate in nero nel foglio delle interrogazioni. Declaraciones contradictorias unas con otras. Dichiarazioni che si contraddicevano l'una con l'altra. Descubrieron que en el basurero no pasó nada. Que en la discarica no era successo niente. Lo descubrieron por dos cosas. Primero, porque entrevistaron a los señores que se encargan de llevar la basura, ese basurero, funcionarios. Lo han scoperto intanto interrogando le persone che gli spazzini, il fatto che scaricano la spazzatura lì. Bueno, creo que todos conocemos los carros de la basura. Allá en México existen, no sé si acá existen también. Tuvieron presente el camioncino de la spazzatura. Allá en México los manejan unos señores, no sé si aquí estén más avanzados y se manejen solos. Lo guidano dei signori, non so se qui no, siano autonomi. Se perché avanti e si guidano da soli. Pues esos señores subieron a tirar basura el día 27 y el día 28 de septiembre y ese basurero estaba intacto. El 26 y el 27 y el 28 de septiembre han scaricato la spazzatura lì ed era normale la discarica. Y no solo eso, a esos señores los obligaron a ir al Distrito Federal a firmar y a poner su huella en expedientes falsos. E oltretutto hanno obbligato questi signori ad andare al Distrito Federale, la capitale della Città del Messico, a lasciare impronte digitali su dichiarazioni false. Esa noche sí participó el ejército, también lo demostraron los expertos. Gli esperti hanno anche dimostrato che quella notte l'esercito ha partecipato. El gobierno mexicano había dicho durante casi un año que el ejército ni siquiera había escuchado. Mentre il governo messicano diceva durante tutto un anno ha detto che l'esercito non aveva neanche sentito quella notte. Los expertos con bitácoras, con llamadas telefónicas y con otras cosas demostraron que sí participaron y que sí sabían que estábamos ahí y lo que estaba pasando. Esperti hanno dimostrato con prove che invece l'esercito era lì e sapeva, ha partecipato. Y bueno, ese fue su informe final de 6 meses, el día 6 de septiembre. E questo è stato il loro informe finale. La dichiarazione, il documento finale in dato al 6 di settembre. A partir de ese momento nosotros pedimos que se extendiera el mandato de los expertos de manera indefinida hasta que se terminara de esclarecer el caso. A quel punto noi abbiamo chiesto che si prolungasse in modo indefinito, a tempo indeterminato, il mandato degli esperti fino a che si chiarisse il caso. Sin embargo, il governo mexicano solo permitió 6 meses más. Il governo ha permesso solo 6 mesi in più. 6 meses más, de los cuales ya transcurrieron 2 y todavía no se termina el trámite y los ajustes necesarios para que ellos puedan realizar su trabajo plenamente. Sono trascorsi solo 2 e ancora non si sono risolti tutti i tramiti necessari affinché loro possano portare a termine il loro lavoro. Es más, el gobierno mexicano dice que se va a hacer un tercer peritaje del basurero. Il governo messicano insiste che si farà un terzo controllo della perizia della discarica. Como si estuviéramos empatados. Come se fossimo bloccati. Como si estuviéramos 1-1 en un partido de fútbol. De final. Come se fossimo una partita 1-1 di calcio. No sé si lo vamos a resolver a penaltis o qué está pensando el Estado mexicano. Cosa sta pensando lo Stato messicano? Come se appena penaltis. Se di rigori, fossimo ai rigori. A nosotros nos encabrona que digan vamos a hacer un tercer peritaje como si estuviéramos jugando a la investigación. Ci fa arrabbiare come se stessimo giocando all'indagine. Se empeñan en buscar a nuestros compañeros muertos y eso pues no solamente nos ha encabronado a nosotros, ha encabronado a mucha gente en México. Si empeñan, si sforzano di cercare i nostri compagni morti e questo ci fa arrabbiare ancora di più a noi e a altre persone fuori dal Messico. Creo que desde el principio la población mexicana, ustedes y muchos otros han demostrado que no estamos jugando al movimiento. Dall'inizio noi e persone come voi abbiamo dimostrato che non stiamo giocando a questo movimento. Porque en un movimiento no se juega, y ellos, en cambio, sí están jugando a la investigación. En un movimiento no se juega, mientras loro están jugando a la indagine. Como si se tratara de engañar a niños o a personas que no saben nada. Como si tratase de engañar a bambini o personas que no saben nada. Y es cierto, no sabemos nada nosotros, pero sí nuestros expertos, sí nuestros abogados, sí los forenses argentinos. Ed è vero che noi non sappiamo niente, però non gli esperti argentini, i nostri avvocati, della commissione. Entonces, pues eso venimos, ¿no? Son 15 meses ya. Per questo siamo qui, sono passati 15 mesi. 15 meses y ahí están las familias, resistiendo, yendo por todo el país, yendo a otros países a difundir lo que han pasado y lo que pasa con mucha población en el país. Sono passati 15 mesi, le famiglie continuano a essere lì, resistendo, andando in altri paesi, muovendosi, difendendo. La movilización en México ha disminuido, es cierto. È vero che è diminuita la movilizzazione in Messico. Pero nosotros no somos ilusos como para creer que todo el tiempo la gente va a estar saliendo a las calles a nuestro ritmo. Ma non siamo degli illusi, non crediamo che la gente possa salire al nostro ritmo sempre in strada, uscire in strada. Ya no salen a las calles con nosotros, pero eso no quiere decir que hayan dejado de apoyarnos. Non scendono più in strada con noi, però non vuol dire che abbiamo smesso di appoggiarci. Porque no todos pueden renunciar a su trabajo como lo hicieron los padres, que son los directamente afectados. Non tutti possono rinunciare al loro lavoro come hanno fatto i genitori di 43 rinunciando al loro lavoro. Lo que sí hicimos es lo que sí, como supimos que la protesta iba a disminuir, lo que tratamos de hacer es equilibrarlo con los expertos, con los peritos argentinos y con todo esto que hemos ido logrando en el plano de la investigación. Sapendo que la protesta sarebbe diminuita, abbiamo cercato di bilanciarlo con gli esperti, con la commissione, quindi con il loro lavoro. Y bueno, sentimos que la situación está equilibrada de todas maneras. Poca protesta en la calle, mucha investigación. E sentiamo che comunque la situazione sta equilibrata con poche proteste, però molta investigazione, molte indagini. Y bueno, tampoco podemos trasladar a la gente de Europa a hacer una manifestación en el DF. ¿Para qué chingados la queríamos allá, no? Non possiamo neanche spostare tutta la gente d'Europa, Città del Messico, a fare la manifestazione, perché? Chingados. Che cazzo, cioè, non ci teneva a dirlo. Querías decirlo a huevo. ¿Para qué vamos a trasladar a la gente de Chihuahua, de Campeche, de Durango, de todos los estados del país, allá en México, al Distrito Federal? No tendría caso. Sería un desgaste inútil y estúpido. ¿Por qué spostare tutta la gente de Chihuahua, de Durango, altri posti del México, a Città del México? Sarebbe uno spreco, una perdita di tempo. Lo que sabemos es que la gente ahí está con nosotros y cada vez que vamos a visitarlos, igual que ustedes, vienen, acuden porque están interesados en saber qué está pasando allá, si ya se resolvió o no el caso. Sappiamo que la gente comunque ci sta appoggiando, que ogni volta che andiamo a visitarli ci sostengono perché sono interessati a sapere cosa sta succedendo, come sta procedendo, cosa succede. A eso venimos y bueno, en abril y mayo pues solamente recorrimos así rápido 13 países. Marzo, aprile, aprile e maggio solo abbiamo percorso 13 paesi. Pero pasamos simplemente dando información, jamás entablamos una relación más directa, compromisos directos. Abbiamo solo dato informazioni, non abbiamo mai stretto dei legami più profondi, diretti. Y pues en parte a eso también hemos venido, decirles, ¿saben qué? Estamos resistiendo ya, todavía necesitamos ayuda. E per questo veniamo, per dire che ancora siamo lì resistendo e che abbiamo bisogno di aiuto. ¿De qué manera podrían ayudar? Pues eso son cuestiones que ustedes tendrían que resolver. ¿Cómo podemos ayudar? Queste son cose che voi dovete risolvere. Lo que sí sabemos es que hay muchos de aquí que no se conocen ni siquiera entre ustedes, por lo menos eso. deberían empezar a hacer. Quello che sappiamo è che ad esempio qui anche tra voi non vi conoscete tutti, per cui questa è una cosa che potreste iniziare a fare. E così, già essendo un pochino più, non solamente vanno a poter aiutare a Ayotzinapa, ma se vanno a poter aiutare tra ustedes e a altre lutte. Qui stiamo più cerchiti al Medio Oriente. Que... E così non solo appoggeranno a Ayotzinapa, sino anche ad altri lotti. È vicino qui il Medio Oriente, per esempio. Pues... A grandes rasgos es eso, compañeros, soy un sobreviviente, igual que mis más de 50 compañeros que sobrevivimos. Hay 43 familias esperando a sus hijos. No pueden renunciar a no esperarlos, no sabemos por qué, tampoco lo entendemos, pero ahí está. Yo soy un sobreviviente, como lo son los otros mis 50 compañeros. Lì están ancora las familias esperando, aspettando a sus hijos, a nuestros compañeros. La desaparición forzada es eso, es incertidumbre total. Esta desaparición forzada es incerteza total. Porque no sabes si vive o si, está vivo o si está muerto tu familiar. Que no sabes si es vivo o si es muerto tu, parente. Así que si te vas a tu casa vas a estar pensando, ¿y si está vivo? Per cui si torni a casa tua continuerai a pensare, ¿pero si es vivo? Y cuando andas en la lucha estás pensando, ¿y si está muerto? Y cuando estás en lucha, invece pensi, ¿si invece está, es muerto? Entonces en parte los familiares quieren irse a su casa y en parte quieren quedarse. Per cui la familia, le famiglie vogliono tornare a casa, ma allo stesso tempo vogliono rimanere. Precisamente porque no saben ni qué pasó todavía. Proprio perché non sanno ancora cosa è successo. Esa es la desaparición forzada y afecta no solamente a las familias, afecta al hermano, a la hermana, al vecino, al compañero. ¿A poco ustedes creen que hemos tenido tiempo para ponernos a llorar o a reflexionar de cómo nos afectó a nosotros? Yo nunca me he puesto a pensar cómo me afectó a mí. Esta es la desaparición forzada que afecta sí, colpisce el vecino, colpisce el fratello, colpisce el cugino. E non ci dà il tempo neanche rielaborare quello che abbiamo vissuto. Io personalmente non mi sono mai chiesto come mi ha colpito. Lo único que sé es que en la noche si alguien me toca luego reacciono sentendo que me van a hacer algo, no? È che di notte, ad esempio, se qualcuno mi sfiora, scatto subito pensando che mi faranno qualcosa. Y bueno, primero encontrarlos, después ya ver nuestros propios problemas. La cosa più importante è trovarli e poi pensiamo ai nostri problemi. Sí, exactamente. O sea, así como los padres han renunciado a sus trabajos, a sus casas, a sus cosechas, yo creo que cualquiera lo haría. No sé si ustedes tengan hijos o no los tengan. Yo por lo menos tuve un hermano, también lo perdí y sé lo que se siente. È normale che i genitori abbiano abbandonato i campi, abbandonato le colture. Non so se voi abbiate figli, se io ho perso un fratello e so quello che si sente, che si prova. Io quisiera decir también que nuestro problema es pequeño comparado con otros problemas. Voglio anche dire che il nostro problema forse è piccolo confrontato con altri problemi. Pero cuando hay muerte de por medio, cuando hay desaparición de por medio, no puedes intercambiar el problema más grande por el pequeño. Pero cuando se trata de muerte, de desaparición, no se puede cambiar el problema piccolo, hablar del problema piccolo o grande. O mejor dicho, no puedes renunciar al problema pequeño para atender el problema grande. No puedes smettere de pensar al problema piccolo para resolver el problema grande. Por eso en parte entiendo, no, es que eso es poquito comparado con lo que pasó en París el otro día. Per cui capisco quando ci dicono quello è poco in confronto a quello che è successo a Parigi l'altro giorno. Oh, lo di Parigi è poquito con lo che passò in Beirut il giorno anterior. Quello di Parigi è poco confrontato a quello che è successo a Beirut. E a lo mejor tengan razón, a lo mejor muchos hayan perdido su humanidad pensando de esa manera, comparando un problema con otro. Forse è vero, molti hanno perso la propria umanità confrontando i problemi. Pero nosotros no. A nosotros nos siguen faltando 43 compañeros. Pero a nosotros no, continuamos a mancar 43 compañeros. Y mientras nosotros no tengamos a nuestros 43 compañeros, pues si nos importa lo de París, si nos importa lo de Beirut, pero también nos importa lo nuestro. Mentre continuano a mancare i nostri compagni, sì, chiaro che ci importa Parigi, ci importa Beirut, però continuano a mancare i nostri compagni. E non si vogliono offendere, però igual, pues, a lo mejor mañana me atrevo a poner la bandera de Francia en mi perfil del Facebook también, para que nadie se sienta mal. Non vi offendete, magari domani metterò la bandiera di Parigi su Facebook perché nessuno si senta male. Pero también voy a poner al ladito, o en el fondo, no en el perfil, la bandera de mis 43 compañeros. Pero meterò anche come sfondo la bandiera de mis 43 compagni. Y también le voy a hacer un espacio a los de Beirut. Y farò uno spazio anche ai compagni di Beirut. También le voy a hacer un espacio a los que también pasan, la pasan mal aquí en Italia. Farò uno spazio anche per chi se la passa male in Italia. O en cualquier otro país. O en cualquier otro país. Porque las víctimas son víctimas en todas partes. Las víctimas son víctimas en cualquier parte. La muerte es igual en todas partes. La muerte es siempre igual. Y lamentablemente este tipo de muertes, de este tipo de muertes son responsables unos cabrones que nosotros identificamos bien. Y que no pensamos perdonar ni hoy, ni mañana, ni dentro de un año. Tristemente di queste morti sono colpevoli dei cabrones. Pezzi di merda. Che non pensiamo perdonare né oggi né domani. Así es que lo que vinieron, en resumidas cuentas, es escuchar un discurso de odio. Quindi alla fine quello, siete venuti a ascoltare un discorso di odio. Tienen razón ellos, ¿no? Los odiamos. Sí, los odiamos. Porque nos quitaron a 43 compañeros. Porque están acabando con las montañas, los ríos y tantas otras cosas más. Y nosotros no queremos ya ser cómplices de eso. Una razón es porque sí, li odiamos y ci stanno privando delle montagne, dei fiumi y un sacco di altre cose y noi non vogliamo più essere complici di ciò. Y en esos términos, pues gracias por venir. Y qui vi dico grazie per essere qui.